Sì, e i danni registrati sono per alcuni miliardi di euro, perché comunque i fenomeni si stanno susseguendo da circa 20 giorni, quindi le condizioni delle aziende agricole sono sempre più in difficoltà. Partiamo dagli allagamenti che ci sono stati in pianura fino ad arrivare a tutte le difficoltà che ci sono in montagna, con frane, smottamenti, scollegamenti. E in generale qual è il settore più colpito? Non so, alberi da frutto? L'ortofrutta e tutta la parte che riguarda anche le colture a trapianto, le colture sementiere, cereali. E quanto tempo impiegheranno le colture per tornare alle condizioni di qualche settimana fa? È difficile, in alcuni casi abbiamo perso la produzione dell'anno, in alcuni casi dovremo fare le valutazioni su quella che è la situazione che si sta verificando post uscita dell'acqua. In alcuni territori dove si sono verificate le frane, credo che sarà difficile tornare ad avere anche aziende agricole su quei territori. Quindi una totale perdita sotto questo punto di vista? In alcuni casi sì, comunque è un danno veramente molto importante, credo mai verificatosi in Romagna. E diciamo che cosa si potrebbe fare adesso, insomma, per cercare di limitare comunque i danni? Speriamo, uno, che smetta di piovere, due, che riusciamo il prima possibile a liberare i territori che sono rimasti isolati dalle frane, per riuscire a ricollegarli con le città e per ricollegarli con i servizi. Ma intanto ci sono state comunicazioni di aiuti da parte dell'amministrazione o comunque il governo? Certo, noi abbiamo chiesto una legge speciale che possa rimborsare le spese che le aziende avranno per fronteggiare questa emergenza, e comunque la Regione Emilia Romagna, tramite il suo assessore all'agricoltura, sta facendo il massimo possibile per riuscire ad indennizzare le aziende nel minimo tempo possibile. E quindi, insomma, lei può dire che una situazione del genere non si è mai verificata? Non si è mai verificata, a conoscenza dei nostri agricoltori dei territori non si è mai verificata, si verificava in alcuni pezzi della Romagna ma mai così. Stesa.